Radio 24 Reportage. Bob Marley, leggenda eterna, messaggio senza tempo, di Marta Cagnola. Piccolo, magro, vestito di verde, rosso e giallo, i colori della bandiera giamaicana, Bob Marley arriva all'aeroporto di Linate. 40 anni fa il telegiornale raccontava così l'arrivo di Bob Marley nel nostro paese. Due concerti, il 27 e 28 giugno del 1980. La Praising Tour fece tappa rispettivamente allo Stadio Meazza di Milano e allo Stadio Comunale di Torino. La prima volta e purtroppo anche l'ultima della Re del Reggae nel nostro paese. Chi ha avuto la fortuna di assistere a quei concerti li racconta come un'esperienza straordinaria. Il giornalista e scrittore Massimo Poggini. Il concerto fu, io me lo ricordo, meraviglioso. Fu un concerto che in realtà iniziò nel pomeriggio ed andò avanti fino alla sera. Il primo era il bluesman Roberto Ciotti, poi seguì Pino Daniele, poi seguì l'Average White Band e dopodiché entrò il gruppo, non Bob Marley, perché le prime quattro canzoni comunque le fecero i Wailers con le Aitriz, che erano le sue mitiche coriste, compresa sua moglie. Poi ad un certo punto scattò questo tipo un mantra fatto appunto dalle coriste: Marley, Marley, Marley, Marley. Hello. Iniziò l'eccitazione generale, tutto quanto, entrò lui con la sua chitarra, con la sua Gibson, e iniziò a cantare, suonare, e lì fu ma non era un delirio, era proprio una cosa di beatificazione, non so come dirti, cioè ecco, se la parola giusta è proprio questa: eravamo tutti beati, eravamo tutti felici, eravamo tutti contenti, io ero con una mia amica, ma ci sembrava di essere amici di tutti quanti, cioè c'era questa atmosfera che era fantastica ed era stato veramente bellissimo. La gente è importante. È più importante la gente della musica di Bob Marley? Non c'è più importante, non c'è più. No. È importante, cioè è importante la gente, è importante la musica. Ma perché quel messaggio è ancora attuale? Lo abbiamo chiesto al figlio di Bob, Ziggy Marley. Everyone loves the message. Tutti amano il messaggio. Il messaggio è ancora importante oggi. Questo è ciò che attirava la gente a lui, oltre che la sua personalità. Quando mio padre è morto, era ancora molto giovane. La sua immagine è quella di un giovane uomo. Quindi le nuove generazioni comprendono il messaggio. Si immedesimano. Beh, perché il mondo ha ancora bisogno di voci che portino il messaggio, e la sua era una delle voci più importanti. Finché non si smetterà di pensare che una razza sia superiore all'altra, il messaggio continuerà ad essere rilevante, e la voce di mio padre continuerà a essere tra le più rilevanti della storia dell'uomo. Il messaggio di Bob Marley dunque è attuale e forse più chiaro oggi di quell'estate di 40 anni fa, quando in molti ancora guardavano all'artista e al suo mondo con un po' di curiosità, ma senza capirne la portata. Massimo Poggini. Ma io Bob Marley ho avuto la grande fortuna di incontrarlo personalmente. Questo successe pochi mesi prima del mitico concerto di San Siro. Lui venne in Italia per un giro promozionale, e la cosa strana che detta oggi può appunto far pensare come funzionavano le cose una volta, che io dovetti insistere parecchio col direttore del giornale Corriere Boy o Boy Music, a seconda dei casi, che era comunque, voglio dire, un giornale metà musica e metà fumetti che vendeva le sue belle 400.000 copie, che insomma erano una cosa così. Ecco, io dovetti tornare dal direttore per 3 volte, alla terza volta lo convinsi perché gli portai una foto di Bob Marley, che poi è diventata famosissima, di lui che giocava a pallone. E tanto per dirti appunto come funzionavano, in quelle settimane lì pubblicammo un servizio su Miguel Bosé di 8 pagine, a Bob Marley se ne dettero 2. L'intervista avvenne in un albergo qui a Milano, che era l'Hotel Cavalieri in Piazza Missori, e lui era in questa suite molto grande, credo la suite più grande che c'era in questo albergo, ed io entrai dentro e c'era praticamente una situazione tipo nebbia fortissima a Milano, che non era nebbia. Io attraversai questo salone abbastanza grande, lui era seduto giù in fondo in questa poltrona rossa tipo un re. Quando io arrivai, non essendo abituato a nessun tipo di consumo di niente, già avevo la testa che mi girava. A memoria, credo che parlammo un 20-25 minuti, una cosa del genere, però eravamo soltanto io e lui. Per noi, tieni conto che era tutta una novità, cioè il fatto dei Rasta, noi in Italia lo venimmo a scoprire con lui in quei giorni. Non sapevamo neanche che cos'era, tanto è vero che io da ragazzino inesperto gli feci anche una domanda un pochettino incauta sul Ailes Elassie, che per loro era il dio in terra, no? Rastafari. Mi ricordo benissimo l'occhiataccia che mi dette un pochettino tipo fulmi, cioè che cavolo mi stai dicendo, anche perché più o meno dissi: ma come fate ad avere come dio questo qui che ha anche ucciso delle persone? Però l'intervista fu molto leggera. Si parlò per esempio della nazionale di calcio italiana, disse di essere molto tifoso della nazionale. Io anche lì rimasi sorpreso, perché pensavo che mi dicesse più Brasile, Argentina e cose del genere. Tu sei stato poi in Giamaica? Io poi sono andato in Giamaica molti anni dopo, in realtà a Nine Mile, che è il villaggio dove nacque Bob Marley, però l'hanno fatto diventare una sorta di santuario con memorabilia, c'è addirittura il marmo di Carrara, questo tipo di cose. Ecco, l'unica cosa che è rimasta originale è questo rock pillow, che sarebbe una pietra vera e propria, dove racconta la leggenda che lui ci si mettesse con la testa sopra questa pietra e poi cominciasse a scrivere canzoni. Non so se sia una storia vera o falsa, però come leggenda è abbastanza bella. Poi c'era il guardiano della, diciamo, della cripta dove è conservata la sua tomba, e ad un certo punto vidi appeso da qualche parte una copia del Corriere della Sera dove si parlava del concerto di San Siro. E quando io dissi: io lì c'ero e Bob l'ho anche conosciuto, l'ho intervistato, gli ho spiegato, faccio il giornale, allora lì sono diventato il suo più grande amico, baci, abbracci, cose, una cosa pazzesca, bellissima è stata anche quella. Alla fine ti dico, da cosa molto turistica è diventata una cosa bella anche questa. All pirates, yes they rabbi. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Nel 2020 non ricorrono solo i 40 anni dai concerti italiani, ma anche i 75 anni dalla nascita di Bob. La Bob Marley Foundation porta avanti i progetti sociali che hanno sempre accompagnato l'artista. La famiglia Marley custodisce anche l'eredità artistica di Bob, perché, spiega Ziggy, farne parte è un grande onore. Well, it's a blessing, you know, I mean, it's a blessing, you know. Beh, è una benedizione. Far parte di una famiglia è una benedizione. Continuiamo a sforzarci di onorare l'eredità di nostro padre con tutto quello che facciamo, come un'unica famiglia, sia nelle nostre vite personali che di fronte al resto del mondo. Siamo una bella cosa insieme. Il messaggio di Bob Marley non è solo musicale, il suo messaggio è anche spirituale. Senti questo tipo di connessione con il suo pubblico, con la gente? Certo, mi sento connesso alla gente che condivide gli stessi valori. Amore, rettitudine, giustizia, pace. Mi sento legato a tutti. Attraverso i social media possiamo comunicare e usare questi strumenti per unire le persone. Tutti gli amici di Bob Marley sono come una famiglia per noi. Insomma, siamo un'unica famiglia. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.